antenna e i trasmettitori, belli veramente, un bel lavoro, peccato che le buttino in terra queste postazioni. E c'hanno, chi le deve demolire ci ha vinto l'appalto, la gara per 109.000 euro. Rec. Sì, Antonio, no, trovate Antonio. Buonasera a tutti, buonasera. Hola, hola. Che marasotti di biglie. Hola, hola. Così va bene, là. Ah, va bene, non ti preoccupare, vai. Cazzo, l'ho sbagliato, benvenuto, vai già. Sì, mi stavi contagiando. Sì, ciao Antonio. Buonasera, sempre provando questa radio, ma chi ti sente tanto? Chi ti sente? Chi voi non mi tindite? No, anche a Giuducato, anche a Marasurci, a Giuducato, boh. E magari sa, adesso va a andare un po' bene. Va bene? Ora, ora. Ma come stai uscendo, quel grande? Cappa. Ah, pensavo che si è cambiato radio. E tu già fra che danno hai fatto a memoria tua? Parecchi, talmente tanti che mi sono pure dimenticati. D'altronde la sperimentazione richiede anche grandi sacrifici e quindi non è detto che la imbrocchi sempre. Sì, Anto, ti sentiamo bene, non c'è problema, però se c'hai tutti questi problemi che sempre con i microfoni, ti consiglio di procurarti uno di quei vecchi baracchini, ti ricordi, roba, quelli che hanno il volume, senza neanche lo squelce, solo il volume, guarda, e sei canali, e basta, così almeno non ti confondi con tutte quelle manopole. Ah, veramente, chi c'è? Un microfono serio, che costa pure un bedetina, non è un cicappuzzo, no. Purtroppo magari mi sono dimenticato qualcosa, cioè molte volte tocco qualcosa qua, non me ne abito di notte. Tanto ti posso dire una cosa? Dimmi. Non tocca nulla, tu quando hai trovato la posizione del microfono, della potenza e tutto, non toccarlo, anche se riesci a prova aumentare, io non lo tocco mai, non tocco nulla, lo lascio sempre fisso così, mi solo se vai in FM che ti spara tutta la potenza, a quel punto diminuisco, ma in FM ci vado quasi niente, oppure uso altri tipi di radio, non c'è problema, non toccare mai niente, perché poi magari non te ne accorgi, magari stai uscendo, se si satura oppure ti crea altri problemi, tienilo sempre a metà e anche meno della metà, e l'apparecchio ti dura un sacco di anni. Già lo so, già. E già un gioco cosa devo toccare io. Però molte volte, siccome qua c'è appoggio anche il telefonino, di notte magari non abbai da sapere e tocco qualche cosa, ne ha tanto, compreso. E fai una custodia di quelle ermetiche, tipo, ti posso dire, quei coperchi per... Cosa cavolo ti posso dire? Quella scatola in plastica, glielo metti sopra la notte, tuc, e non ci cade neanche poco. Cosa diventa una cosa? È gara che frucende. Va, ma con i gardena. Questo ci mancava, no? Però bene, sentivamo proprio la mancanza. Ma anche ieri l'ho sentita la pernacchia, ti ricordi? È già fra. E poi la cosa, c'era un segnale molto forte, Claudio arriva a 9:30 e l'ho sentito sotto di Claudio, ho fatto break, basso sotto, più basso di Claudio, però era un segnale quasi 9:30, e Claudio stava uscendo con una radio seria, chissà chi era, abbiamo rilanciato, però non... Pensavo fosse Antonio, invece Antonio mi ha detto che non c'è. Sì, ma questo arriva giusto a 7:30, quindi non è che fa niente né Antonio né a te se parlate, ne ci ha messo male. No, non parlo questo segnale, questo di adesso qua sta arrivando quasi 9, parlo di quello quando c'era prima Claudio, era un segnale, Claudio era 9:30, quello sarà stato sui 9:25. Buono sonno, care. Sì, tanto, non è che ce ne freghi niente. Finiti sono i tempi dei dispetti. Già dormo lo stesso, non ti preoccupare, da non me ne dà di a mangiare dalla radio, e ne credo né a te né a Antonio. Che molte volte si combinano cose che sono tardi travaglienti, e poi ti vedo queste cose. Per starmene qualche minuto a favidà, non è niente guaccia, è buco. A fa la bernacchia, ma ti ripasserà in un macchino. Vabbè, io la prendo filosofia, io dico sempre, magari gli è sfuggita, non se ne è accorto, o era distratto, se no. Cioè io ti ho dato quella importanza a queste cose, fare il gioco della persona, per cui prendiamola come uno scherzo, dai, simpatico. Vabbè, ci cazzina tutti. No, ci sono cose più importanti da fare. Sì, stavamo dicendo dalla RAI. Si stanno distruggendo tutto, sicuramente anche per questioni energetiche, va bene, però non è che faccia proprio piacere questa cosa, perché alla fine senti quelli, insomma, tutte quelle frequenze se li prendono quelli là che stanno sempre con quelle litanie, no? Già le ascoltate robe molte volte. Certo, ma non è solo l'Italia, io ho notato anche la Germania, che è sempre stata all'avanguardia nelle radio, la Gran Bretagna, la stessa BBC, che sono un sacco di stazioni. Chi stanno andando forte sono ancora le spagnole, ho visto che hanno un sacco di posizioni occupate, diciamo, in frequenze, anche i francesi ne hanno abbastanza, e poi non parliamo delle stazioni arabe, che ogni giorno c'è una più potente, se ne ha 10 ne chiede 100 di potenze in più di quelle che aveva prima. Fa una gara che ce l'ha più duro, come si dice, per certe altre cose. Poi ci sono le stazioni politiche, quelle cinesi, eccetera eccetera. Ma perché vogliono togliere le onde media? Sì, le stanno già togliendo, entro il 2022 tolgono tutte le cose, ne avevo buttato giù un traliccio, lo sta dicendo Gianfranco, che è il più alto d'Europa per questo tipo di emissioni. Il più alto in assoluto è quella di Varsavia, però è una torre nata per altre cose, ci hanno messo un'antenna sopra. Però di antenna diretta, la più alta d'Europa è questa di Caltanissetta, 286 metri. Ah, per me è una gran cagata, cioè, sono sempre belle le onde medie, cioè, girano tutto il mondo, giravano. Guarda, io quando andavo fuori, molte volte all'estero, ti capitava di vedere come il telegiornale, cosa sta succedendo in Italia, eccetera, eccetera, e non è prima, adesso vabbè, con il telefono è facile, io parlo 20 anni fa, e l'unica stazione che riuscivi a agganciare erano queste qua, onde medie, delle stazioni broadcast, parliamo della stazione nazionale, non c'era altro, e qualche notizia riuscivi a vedere cosa sta succedendo in Italia, e riuscivi solo a sentirlo lì, quello è il bello, ormai però con il telefono non ascolti qualunque cosa. Stazione del mondo senza nessun problema, sono costi, come ha detto Gianfranco, sono solo costi e basta. Mantenere in piedi una stazione del genere sono, perché poi ci vanno, anche se tu la tieni spenta, le manutenzioni dei tralicci, di tutto quanto, e se non le fai le manutenzioni ne cadono in terra e succedono guai. Lo so, vabbè, anche quello sarà un pezzo di storia che non ci sarà più. Quelli che invece non li toccheranno e tra lì ci sono i militari, quelli se li tengono ben saldi. Dipende, perché qualche cosa militare, per fare l'esempio più vicino, quello che c'è su Atenio, a Coso, all'Embala, che hanno speso miliardi per farlo col sistema di Coso, di radar, eccetera, eccetera. Adesso se vai su, non so se sei salito recentemente, in questi giorni, un fine settimana, se ne voglio vado di nuovo a fare un giro, faccio anche qualche foto. Hanno disintegrato tutto, se ne hanno staccate anche le tubazioni. Poi sopra, più in su, in cima hanno fatto quello nuovo della militare della NATO, una cosa bellissima, nel senso neanche paragonabile minimamente a quello americano, però anche quello è uno scherzo. Però diciamo quello dell'Imara era già vecchio per queste tecnologiche, mentre invece gli altri rimangono sempre in auge, perché ovviamente anche di lì ci sono molti progressi, solo che non ce lo dicono a noi, ecco, parola povera. Il che significa anche che se iniziano a togliere tutti questi stralicci, stanno rinunciando anche al DMR, che non decollerà, cioè lo stanno usando in tanti, però sono, come si dice, ad orario, quindi non è, ce ne sono poche che fanno 24 ore su 24. Su quello, tu che sei anche appassionato, li ascolto, ci dovresti lavorare, e ti assicuro che non ti costa niente ascoltare quelle stazioni, vabbè, perché si tratta solo di interfacciarle e basta. Sono tutte dell'ordine dei 5 kW, 10, qualcuna arriva anche a 40. Dipende, come al solito è molto attiva cosa, radio, credo che sia radio Cina, se non ricordo male, che anche in onde mie tra l'altro. Riprendiamo. Infatti i cinesi si intendono in voce, si intendono. Molto molto forte arrivano, io ho provato in onde media, intendi, ha detto un milione cinese, sono arrivati anche 9.20, 9.30. Sì, c'hanno delle potenze da paura, eccetera, ma poi sono furbi cinesi, si aspettano anche in lingua italiana. Io ho capitato di sentire trasmissione in lingua italiana dalla Cina, direttamente da stazioni cinesi, anche iraniane lo stesso trasmettono in cinese, scusa, in italiano, oltre che la lingua. C'hanno una decina di lingue e cose cinesi, queste grandi radio, come si chiama, continentali, non continentali, più di oltre continentali, perché trasmettono in tutto il mondo e usano diversi linguaggi in modo che si facciano conoscere le loro culture. Ce ne sono tanti. L'Italia non lo so se lo fa, forse un paio di lingue lo farà in inglese e spagnolo, ma i francesi una decina di lingue, forse anche di più. Solo più di loro Radio Vaticana. Radio Vaticana sembra ci abbia, non vorrei dirti, ma 25-26 lingue diverse. La Radio Vaticana in onde media trasmette sempre o smette pure quella? Radio Vaticana c'ha una marea di frequenze, anche se di bande, non solo di frequenze. C'è da dire che molte le ha chiuse per problemi di inquinamento, detto i campi elettrici, creava un po' di problemi in quelle zone lì. Per cui stanno puntando su satellite e anche sull'internet. Se ti trovo 30 registrofoni, burro, viene un campo magnetico con quelle antennone. Io ci sono andato, se tu ci fai, non dentro, perché dentro non ti fanno entrare, poche persone eccetera, una cosa spaventosa. E poi ho visto la stazione trasmettente di Radio Tirana, che Radio Tirana è una delle più famose, diciamo, a livello europeo, pur essendo un paese, diciamo, l'Albania, un pochettino chiuso, diciamo, non adesso, ma prima era un paese dittatoriale, c'era cioè il dittatore, eccetera, eccetera. Però è una delle più antiche radio europee, come è stata abbastanza conosciuta, dai. Ce n'erano poche prima di quella, eppure era molto ascoltata. No, diciamo che era una delle radio più bestemmiate di tutto il mondo, forse, perché usciva con tante di quelle spurie che ne sanno qualcosa per chi era gli amatori, le bestemmie che le hanno mandato. Era una cosa micidiale in banda materiale, guarda, al limite dell'utilizzo delle frequenze. Splatterava e disturbi a gogo proprio. Ma tu lo sai con che potenza usciva? Tu forse penso che lo sai, ma potenze spaventose, stiamo parlando di 2 megawatt, c'erano due trasmettitori, prima c'erano 900 kW, poi ne hanno portato due i cinesi, siccome all'inizio c'erano delle simpatie per la Cina, prima che ci fosse quel dittatore, eccetera, eccetera, che poi si è estraniato da tutto il mondo, e hanno portato questi trasmettitori cinesi da 2 megawatt, collegati insieme, potenze spaventose, trasmettevano. Per cui era normale che disturbassero, perché non ti ricordi quel segnale, il picchio, cosiddetto picchio russo, che è stato per 50 anni, per il sino alla guerra fredda, che trasmetteva questo rumore, che ha disturbato tutto il mondo. Ma quello almeno era un radar, capito? Quella invece di Tirana era solo una rottura di palle e basta. Io la conosco bene perché sono andato anche negli studi, una carissima amica mi ha fatto entrare lì, ci sono andato diverse volte, negli studi televisivi, radiofonici, vabbè, e ti posso dire, TV 10 Pizza si chiama il nome esatto, RTS è il nome giusto della stazione, ed è all'avanguardia, cioè no, noi ci immaginiamo Albania, se andate in Albania vi rendete conto che per certi versi sono molto ma molto all'avanguardia, soprattutto sono la maggior parte parte dei tecnici sono tutti italiani, ex Rai, ex Mediaset, te li chiamano di lì, li pagano profumatamente per insegnare ai loro tecnici e poi hanno delle apparecchiature all'avanguardia. A quei tempi che c'erano quegli apparati grandi, comunque erano la fame più nera. Assolutamente d'accordo. E con loro ho avuto la dittatura, è durata una quarantina d'anni, ma un pazzo da negare, questo a livelli di suoi, forse il più pazzo di lui c'è quello, come si chiama, quello della Corea del Nord, più pazzo di lui, questo c'aveva la mania dell'accoso, che potevano essere invasi da un momento all'altro, ha costruito, non vorrei dirti, ma mi sembra ogni due abitanti, la mania c'ha 3,5 milioni di abitanti, ogni tre abitanti c'era un coso, un bunker, perché era fissato che li invadessero, e se tu vai di lì è pieno ancora di bunker, di cose che dici, ma cosa cavolo se ne fanno di queste? Anche dentro la città hanno fatto dei musei, delle cose alla memoria, eccetera, eccetera. E tu se vai adesso a Tirana, tu rimani a bocca aperta, io dico, poche città ci sono con delle cose avveniristiche come ci sono di lì, cioè se tu vai in Italia, io non li ho visto città con delle costruzioni avveniristiche come quello lì, è una città in espansione spaventosa, c'è una ricchezza esasperata, è una povertà esasperata, cioè non hanno una via di mezzo, noi in Italia c'è una media di ricchezza, non ci sono né super ricchi né super poveri, quindi invece ci sono super ricchi e super poveri, non vedi il ceto medio non esiste, ma tu vedi delle costruzioni, dei grattacieli che dici ma che cacchio se ne fanno, degli alberghi con 50 piani, cioè alberghi enormi, vabbè 50 mari no, 50, sarà stato un 300 metri questi alberghi che ho visto, l'Hilton, cose così, vedi delle costruzioni rimane, ma che cavolo se ne fanno, ma tutti, eppure ci vanno un sacco di, ci sono dei centri commerciali che ti spaventano. 90% è quello del riciclaggio, che investono lì quei signori che sono da noi, no? Sa chi sono anche. Riprendi Anto, fatti sentire su. I salienti sono un poco strana, so. Due megawatt, megawatt, qui sono ben me, se ti avvicini sono l'antenna di cucina rossa quella cosa. Ma tu, Antonio, non so se sei salito mai su all'Imbara, l'Imbara la RAI c'ha trasmettitori da 160 kW, 160.000 watt, i più forti di tutti sono, 130.000, 160.000 sono a Bade Urbana che sono più forti, tu se vai di sotto, tu accendi la radio, una qualsiasi radio, tu non prendi niente, vero, muto, tutte le radio sono mute, compresa la RAI, non senti niente, vanno in saturazione le radio, io per ricevere di lì ho dovuto, quando sono andato di lì, ho dovuto mettere un attenuatore di 20 dB, se no non prendevi niente. Una cosa impressionante, ma sicuramente c'è un po' di compressione, di segnali forti, capito? Muto, cioè vanno in saturazione tutte le autoradio. Quando sono andato su con lo scanner ho dovuto attaccare l'antenna dallo scanner senza antenna e mettere 20 dB di attenuazione, così sono riuscito a prendere qualcosa, se no muto, tu dici cacchio vado sotto le antenne e poi su non si prende, non si prende. Vai già. Ma attenzione, di che frequenza stiamo parlando su all'Imbara? Perché io ci sono stato anche da poco. Allora la RAI trasmette con 130 kW, è la stazione più potente che c'è sull'Imbara, le altre sono 50, 60, 30, mediamente sono su quelle potenze lì. Il ponte ripetitore RAI, parliamo in FM, RAI 1, RAI 2, RAI 3, Radio 1, Radio 2, Radio 3, trasmettono con 130 kW. 130 kW mi sembrano molto molto esagerati per quello che deve fare quel ponte, ma troppo esagerati, sono più che altro potenza da HF. Parlare in kilowatt e in VHF forse possiamo parlare solo dei radar, perché io ci sono stato su proprio a Cancelli, che avevo un portatile che non è neanche di marca tra l'altro, non è a livello di quelli che uso normalmente, e ho comunicato tranquillamente con Sassari senza alcun disturbo di nessun genere. Quindi se mi parli di FM 8808 non è molto distante, ecco, da quelle bande. Quindi probabilmente c'è proprio uno scanner messo male. No, allora guarda, io sto dico con certezza, adesso ti sto guardando anche le potenze esatte. Allora, sempre Pausania, a Monte Alimbara c'è la distanza da Sassari 54 km, l'azimut 75 gradi, potenza 130 kW, 50 dB di segnale c'hanno, vedi, da Sassari, ricevuto da Sassari. Tieni presente, Santo Lussugio, appunto a Badeumana ne ha 160 di kW. Vediamo cosa c'è di Tempio, c'è, se c'è qualche altro a Tempio, perché io ho l'elenco di tutte le radio con tutte le frequenze. Vediamo se c'è un altro potente su a Tempio. Tempio Pausania, la radiolina esce con 16 kW, ha 38 dB di intensità di segnale. E questi sono tutti i rapporti di fatti con apparecchiature e dichiarate, le potenze effettive dichiarate. Ti do tutte le frequenze di qualunque della Sardegna, io ho scaricato quello della provincia di Sa. È il più potente di tutti, il trasmettitore più potente che c'è, diciamo, nella provincia di Sa, è quello della RAI, Radio 1, Radio 2 e Radio 3, 130 kW. Non è tanto solo la potenza, c'è un sistema radiante a polarizzazione circolare con delle antenne a guadagni spaventosi, ma non ne hanno uno, ne hanno non so quanti, se sono una decina collegate. Sì. Non lo so, mi lascia un po' perplesso comunque questa cosa. E niente, vabbè che sono a banda larghissima quelli, quindi hanno bisogno di potenza. E così. Lo sai, tra l'altro, perché hanno aumentato così tanto le potenze, adesso ci sono sistemi di trasmissione a microonde eccetera eccetera, per cui il ripetitore Monte Alvaro è servito dall'Imbara, ma prima era l'unico ponte che trasmetteva in banda, lo dico con certezza perché io ero 99.5 la mia frequenza censita, e loro trasmettevano dall'Imbara a 99.300, dovevi stare attento a non uscire fuori, allargarti troppo, se disturbavi appena il segnale, guai, eri fulminato, ti prendevi una denuncia. Infatti quando abbiamo fatto le operazioni di controllo e tutto di emissioni, quando è venuta l'esporadio, tutto quanto, ho controllato la seconda armonica, quanto erano le spughe e tutto quanto, perché se esci appena troppo largo, perché in FM stereo ti allarghi un pochettino, la deviazione sono 75 kg e tutti escono oltre i 100, 150, qualcuno c'è anche 200 di deviazione, per cui se tu tocchi appena la RAI è finito, e lì la RAI usciva in banda, Monte Oro era alimentato in banda dai 99.3 di Monte Limbara, adesso usano altri sistemi a microonde, utilizzano sistemi meno come si chiama, diciamo disturbabili da agenti atmosferici eccetera, e per quello usavano potenza. C'è da dire che adesso tutte le stazioni private hanno aumentato di gran lunga la potenza, tieni presente che RDS da Monte Oro esce con 50 kW, da Monte Alvaro con 42 kW, stiamo parlando potenze strabilianti sino a 10 anni fa, anzi 10 anni fa, 20 anni fa, tu dicevi se uscivi con un kilowatt eri già esagerato, Radio 3 usciva con 120 watt da grattacielo, poi Mondo Radio quando attaccato usciva con un kilowatt 8 per farsi sentire, ma normalmente erano tutti intorno ai 500 watt, adesso si parlano di decine di kilowatt. Ma probabilmente questa è roba vecchia, perché con le tecniche da adesso è stato col costo dei vari sistemi, si possono coprire le zone in cui prima erano necessari 500 kW con potenze molto minore, più economiche, servendo il ponte con dorsali a microonde. Quindi anche quello probabilmente riflette la roba molto vecchia. Tieni presente che la Monte Oro, vabbè, lo so con quanto esce, con 4 kW rispetto alla potenza che c'è all'Imbara, e 4 kW arriva abbastanza bene la RAI, penso che non ne abbia problemi, esce a polarizzazione circolare, e 4 kW, la più scarcina di tutti, quella che c'è più bassa, Radio Super Sound, esce con 1 kW, e poi chi c'è potenti, Radio Sisoni con 10 kW, della Margherita esce, vabbè, non esce dal Ghero, l'OVFM esce con 1 kW, però l'OVFM sì, anche Monte Oro, sono potenze più basse, però ci sono questo cavolo di RDS che trasmette con potenze spaventose. Sì. Infatti le cabine elettriche sono da 3.000 kW. quindi sono abbastanza grossi, ma oramai comunque questi sistemi sono lì lì, perché tu pensa che col nuovo DAB, che è obbligatorio su strato radio nuovo, e tra l'altro le potenze sono enormemente inferiori, tanto è vero che da certi punti di Sassari riesce a sentire tutti i ripetitori francesi. Sì, ha detto bene, tipicamente il DAB a Sassari non c'è ancora, c'è a Monte Alvaro, escono con 1300 watt, 1 kW e 3, tutto il mux di tutte le radio principali, però non è facile riceverlo il DAB qua a Sassari, secondo ti si inchiodonasse della città non lo prendi bene, ma a me mi capita una cosa, non so se vuoi fare il passaggio, tu sali nella salita di dove c'è la caserma Gonzaga, tu sintonizzati sulla RAI 88 e 400, RAI 1, ecco la salita dove ci sono i vigili del fuoco che poi ti portano via fermi, tu sintonizzati lì e fai quel pezzettino della caserma Gonzaga, tu vedi c'è un'attenuazione della RAI spaventosa, probabilmente c'è attivo qualche segnale militare, non lo so, perché disturba la RAI. Può darsi, ma anche passando a Monte Oro i cellulari tendono a non ricevere, poi dipende dal tipo anche di cellulare ovviamente. Tu non ci lasciare soli che ci preoccupiamo. Capa, e quindi quanto in quello di canale 5 quanto esce lì di kilowatt di potenza? Ma noi stiamo parlando di televisione, no, le televisioni sono molto più basse, prima di tutto la televisione tu la ricevi con un'antenna esterna e la radio no, la radio la devi ascoltare anche con una radiolina dentro casa, c'è un'antenna indirizzata nel ponte ripetitore, per cui se tu il rapporto è 1 a 10, anche di più, per dire se tu con un watt ascolti la televisione, cioè guarda la televisione, la radio ce ne vogliono 10 minimo, forse anche di più il rapporto, di 1 a 20, per cui le potenze della RAI c'è con un torno a 1 kW c'è la RAI televisione, mentre nel canale 5 sono quasi 6 kW, più o meno 5 kW e 8, e sono tantissimi, perché la RAI c'è stato un periodo in VHF, parliamo tanti anni fa, usciva con 10 watt, lavorava solo l'antenna, tu mettevi un'antenna in diretta, però non c'erano le private prima, parliamo 40-50 anni fa, quando c'era solo RAI 1, RAI 2, RAI 3, l'altro RAI 3 non c'era, RAI 1 e RAI 2, la RAI 1 in VHF usciva con 10 watt. Azzarola. 10 watt mi hai detto. Adesso è impensabile, cioè con 10 watt non ti sposti neanche dal palazzo vicino, per dire. Però prima la RAI a Monte Oro usciva con 10 watt, con un sistema radiante di un certo livello, antenne ad alto rendimento, cioè non dire è come che ne hai una stazione normale che ne abbia 500, per cui quando tu c'hai un'antenna ad alto rendimento gli metti una serie di antenne accoppiate, anziché metterne una ne metti 20, con quel sistema di radiamento sono antenne a pannello che hanno una resa allucinante, per cui un guadagno impressionante, per cui non ne parliamo. Ma ci sono stazioni, c'è una stazione che come si chiama, Radio Reporter a Milano, e la stazione radio FM più potente d'Italia usa 400 kW, c'è quella, c'è un sistema radiante spaventoso, lavora su quella valca, ma non so se lo conosci, quella postazione di Anfra, dove c'è il sistema radiante più importante d'Italia, uno dei più importanti d'Europa, ma è una cosa spaventosa, ci sono 24 antenne che alimentano un'unica stazione, collegate una con l'altra, 24 sistemi radianti, e qui ci sono una marea di televisione, quella lì c'è con 400 kW, colpire tutta la Lombardia da un unico punto, parte del Piemonte, dell'Emilia Romagna e della Val d'Aosta, da un'unica posizione, sono 1200 metri e passo. Bianco per me. Sì, va bene, vai già. Sì, ma ultimamente c'è la tendenza a rinnovare il tutto, dal 2014 sto leggendo che stanno cambiando molte stazioni e stanno adottando dei nuovi impianti praticamente in sistemi multipli da 10 kW, quindi con più uno di riserva di norma, ed operano a 88-50 eccetera, addirittura anche con potenze inferiori, evidentemente ciò dipende anche dalle zone, comunque sono zone abbastanza Monte Pellegrino, Monte Scuro diciamo, Valcava, che c'è un trasmettitore nuovo del pacca da 5 kW, però sono potenze abbastanza basse, evidentemente servono. Li stanno tutti rinnovando questi, adesso si chiama Rai Way, quindi c'è tutto in carico questi sistemi, ecco, sarebbe la branca tecnica della Rai. Infatti anche a Badi Urbana, quando sono andato, c'era un'insegna Rai Way, e sono tutti sistemi multicanale per sfruttare meglio gli apparati e anche le antenne. E così, vabbè. Sì, no, ha detto bene. Adesso col discorso del DAB non è più necessario avere come digitale terrestre, le potenze si sono abbassate di gran lunga su un'unica postazione, che aspettano decine, non dico centinaia, ma decine e decine di stazioni, perché è un sistema completamente diverso. Già lo stavano facendo la RAI all'inizio, su un'unica antenna trasmetteva 5 canali, e canale 5 ne trasmetteva, Mediaset ne trasmetteva 5 di canali, perché anche di più quando c'erano Telepiù 1, Telepiù 2, Telepiù 3, che poi sono diventati bianco, nero e grigio, ne trasmetteva 5 anche di più, su un'unica antenna. Infatti era quello lì. Io ero amico, un tecnico, era un tecnico della Mediaset, si chiama Elettronica Industriale, che faceva tutti questi punti ripetitori. Ma quello della Valcava è il ponte principale d'Italia ed è di un privato, non so se lo sai, non so cosa abbia speso a costruire quella postazione, perché la RAI non ce l'aveva una postazione lì, paga l'affitto a quello lì, a questo signore qua. Ci sono tutte le radio principali della Lombardia, tutte le private e più quelle nazionali, sono tutte da quella postazione, ma è un traliccio spaventoso, pieno di antenne, che tu non ne hai mai visto da nessuna parte, tu, nessuno ne ha mai vista, perché l'Imbara è una delle migliori postazioni d'Italia, perché era il nodo nazionale quando hanno attaccato la televisione negli anni 50, il punto principale che alimentava la Sardegna era l'Imbara, poi da lì partiva Badi Urbana e poi Serpedì a Cagliari, ed erano il punto, il nodo, chiamiamolo, la rete, i nodi erano, partivano per tutta l'Italia, per coprire tutta l'Italia fino ad arrivare alla Sicilia, e quello dell'Imbara era una delle postazioni principali a livello nazionale. Beh sì, è noto, da lì vai sul Lazio abbastanza bene. E niente, a noi serve molto di meno, fortunatamente, per i collegamenti. Guarda, anche poco fa, quando stavo parlando con te, sempre stavo ascoltando e io qua sentivo Cagliari sulla banda, ovviamente VHF, quindi senza tante potenze, tanta roba, si possono fare lo stesso tante cose. Assolutamente, chi conta è la posizione dell'antenna, poi la potenza è relativa. C'entra, sì, però se tu c'hai una postazione, come si dice, in alto, eccellente, senza ostacoli, ti metti una bella antenna anche con potenze limitate. Infatti se tu vai a Castelsardo, c'è un ponte ripetitore della RAI a Castelsardo, se lo vedi sono 100 watt e uno si cacchia, però ti copre tutta quella zona lì della città di Castelsardo, della cittadina, e quelle zone limitrofe con 100 watt. E se vai a telefono, te lo metti qua a Sassari, 100 watt, se ti mettono una riga, dice dove vuoi andare, perché di lì non c'è niente, tutto, non ci sono inquinamento elettromagnetico di altre stazioni, perché ci sono dei buchi delle zone d'ombra, lì la RAI ha dato la copertura con 100 watt e ti dice cacchio, eppure con 100 watt non c'è inquinamento di altre radio, prendi molte radio dalla Corsica, lì arrivano molto forte, ma dall'Imbara se sali su, cavolo, ti spaventi cosa c'è da prendere, di stazioni dalla Toscana, Isola d'Elba, Lazio, eccetera eccetera, radio, come si chiama, Radio Norma, Radio Subasio, radio, vabbè, c'hanno postazioni importanti loro, potenze importanti, le prendi tranquillamente pulite. Beh, mi ricordo che tanti anni fa di lì erano andati a controllare per vedere se era fattibile mettere un ripetitore in VHF proprio lì dove c'è il il ripetitore della RAI, a questa sala, in quella zona lì. Piuttosto ti posso dire una cosa, mi è scappata, mannaggia la vecchiaia. Tu ci sei mai andato su a Monte Alvaro? No, Monte Alvaro è un desiderio che ci sono passato vicino, però non è semplice andare perché è un'area privata, lì c'è la cava su dovresti passare all'interno. Tu sei mai salito? No, nel giro di tutte le stazioni ripetitrici ci siamo riusciti, Limbara, Bade Urbara, Monterasu, poi cosa c'era? Vabbè, ci mancava Cagliari che era lontano e anche Funi, sia Funi a Coso, non a Funi ma all'alto di dell'Orto Bene. Monte Alvaro ci è rimasto perché la zona è sotto sequestro, praticamente ci dovrebbe essere un accesso dalla cava e un altro accesso, ho visto via satellite, da un'altra strada che però non sembra molto buona. Tra l'altro di lì ci sono anche ripetitori, soprattutto quelli civili, WWF e così via. Sì, c'è la protezione civile. Allora, le uniche radio, a parte la RAI, che c'è da Monte Alvaro, che trasmette da Monte Alvaro, c'è RDS 94.2 e 93.9, c'è Radio del Golfo. Sono riusciti a prendere la postazione di lì, 94.2 di lì c'era Mondo Radio anni fa, perché quella è un'area privata, cioè pagano l'affitto di quell'area lì. Il problema è che non c'era mai corrente di lì, portare sulla corrente, non so quanto costava, dovevo sfruttare la linea della cava, da lì portare. Mi ha detto un amico perché lavorava su queste cose qua, il problema grosso è portare la corrente su, era portare, adesso non lo so se hanno fatto qualche lavoro. Io qui avevo visto di postazione, bella postazione, c'è ad Orgali in alto, c'è un poso che domina, bellissimo, c'è un panorama stupendo, e un amico mio che di Posada, questo faceva, dava la sua postazione, ed era anche tecnico della RAI, alla RAI canale 5 tutto quanto, lui gli dava tutte le apparecchiature, cioè gli dava la postazione, lui c'aveva un posto, dai, una posizione strategica, e lì aveva la propria postazione, le antenne e tutto, e anche i trasmettitori utilizzava di sua proprietà. La RAI è a canale 5, allora parliamo di canale 5, di come si chiama qui, RDS, cioè le prime radio private che stavano entrando, e a lui aveva venduto un apparecchio, allora quando c'erano ancora non c'erano cose digitali per registrare, per fare le un lettore, multilettore di cassette, una 10 cassette che ti facevi la nostra parte, che usare la bobina, mettevi 10 cassette e questo te le leggeva in continuo, in autoreverso, te le leggeva prima 10 in un lato, poi al ritorno si spostavano e ti faceva le altre, che poi quello l'avevo passato a un'altra radio privata, io, eccetera, eccetera. E questo si faceva i soldi, faceva le manutenzioni, un grande tecnico era, un ingegnere, questo, e poi è venuto anche a fare dei lavori a me, alle antenne mie me le aveva allineate, perché quando c'è quel tipo di antenna, cazzo, devi stare molto attento al rosso, non è come qua, se c'è il rosso a 1,5, 1,8, che la futti lì quando lavori in continuo, 24 ore su 24, e se c'è un rosso oltre l'1,3, devi stare molto molto attento. Più alta la frequenza e più c'è il rischio di andare il tilt con quei finali delicatucci, delicatucci. Allora, io ho finito l'ascolto dall'altra parte e quindi passo in commutazione inerte. Okay, sperando di non togliere l'antenna che sto parlando io. Niente, ti posso dire insomma, poi sono stato a Monteforte, ti consiglio di andare a Monteforte se non c'è paura di graffarti la macchina, su dove c'è il radar ADSB, dove è successa anche quella disgrazia qualche anno fa. C'è un panorama spettacolare, si vede proprio l'Imbara. sì, quello lì è la sua molto importante, molto forte. E cavolo, sono importante, quello è il coso di navigazione, c'è cioè la navigazione dell'aeroporto. E lì ci vorrei sempre andare a vederlo, però deve avere un fuoristrada, non è che vai con una macchina normale e ci puoi andare tranquillamente, nel senso ti autorizzano ad entrare. Lì era morta quella tecnica che è caduta da 30 metri da un'impalcatura, mi sembra che era tedesca, stava facendo una manutenzione. Lì c'è il radar di rilevamento dell'aeronautica, non è anche militare o solo civile? No, diciamo un'installazione dell'ENAV, Internazionale Assistenza al Volo, e vi dice praticamente un radar che ti dà più o meno le stesse segnalazioni, ovviamente più dettagliate, di quelle che noi vediamo su internet, su Flight Simulator 24. Il tipo di segnali sono quelli ADS-B, che sono anche a domanda richiesta per quelle belle cose, e poi vengono ritrasmessi ovviamente all'aeroporto. Oltre a quello, e infatti di lì sente quel motore, sente un motore allucinante che fa vum, vum, vum, vum, sempre questo rumore, e come al solito poi tutta la struttura che c'è intorno è in pieno degrado, nonostante l'importanza di quella struttura, di quel sito. Però, cioè, riparare palazzine che sono diventate territorio di piccioni, fare le cose un po' decenti non sarebbe male, oltre a riparare anche la strada. In alto c'è il vero Monteforte, diciamo, adesso, punta della, non so se è punta della Baldracca o una cosa del genere, quella lì è veramente tosta, lì anche la forestale c'ha dei problemi a salire perché sopra c'è la vedetta. Ed è una strada proprio che ci vuole un 4x4 serio, se no è un problema. Mentre Monteforte, diciamo, dove c'è questo sito, ce la sta un po' stretta, però insomma già ci arrivi, ecco. Ma tu con cosa sei andato? Con fuoristrada? Con un SUV più che altro, con un SUVino, piccolo 4x4 ovviamente, ma non c'è bisogno del 4x4, non sono andato con la mia perché pur essendo un SUV, però è largo, ho utilizzato l'altra che abbiamo di riserva. C'è salito tranquillamente perché non ci sono problemi particolari, però la strada è stretta, capito? Quindi ci sono i rovi e ti trovi la macchina alla fine tutta graffiata, ecco. Soprattutto se è larga, questa invece era stretta e quindi andava bene per fare quel lavoro. Ma una domanda, è sorvegliato il posto? Dunque, di lì avevo letto le specifiche e credo che ci siano dei radioallarmi collegati con un istituto di vigilanza che ho visto tra la d'appalto praticamente relativo tra le misure di sicurezza e ci sono i tempi di intervento, collegamento radio obbligatorio con le pattuglie e cose di questo genere, quindi deve avere dalla chiamata al coso un determinato tempo per arrivarci, sempre che poi non ci cadano in qualche buco, e quindi c'è una sorveglianza anche video, se non ricordo male, e inoltre dentro ci sono anche altri ripetitori e non c'è solo quello, c'è un traliccio, mi è sembrato in stile telefonico, cellulare, però ovviamente può essere anche su altre frequenze. La gestione credo che sia proprio dalla centrale lì dell'aeroporto di Alghero, oltre che probabilmente anche da Monteduglia. No, ma quello sto dicendo, sicuramente sarà video sorvegliato, però se uno vuol fare danno di lì crea grossi problemi a tutta la navigazione aerea di lì. Sono qualche cosa come hanno fatto quegli attentati a quei cosiddetti ripetitori telefonici in certi paesi del nord-est, eccetera eccetera, che li facevano saltare. Se uno vuol fare danno importante di lì, basta mettere una carica di lì sotto quella postazione e di lì blocchi tutta la navigazione di tutti gli aerei che passano in Sardegna. Bloccare la navigazione è una parola grossa, diciamo che molti disagi, perché in ogni caso potrebbero intervenire radar che ci sono sulla capocaccia, anche se sono sia meteo sia di scoperta per quello che riguarda l'aeronautica militare, ecco. Ma diciamo la cosa più grave è che queste strutture siano lasciate in abbandono, tanto vero che quella è caduta probabilmente perché le passerelle lì che sono tutte metallo, perché c'è quel globo che vedi che da vicino poi è grandissimo, dove c'è questo radar che ruota, probabilmente erano rugginose, quindi è sempre la stessa tiritera, no? Facciamo le cose e poi ci dimentichiamo che esistono e quindi la manutenzione non viene fatta. Sì, succede sempre così, però sicuro, siccome è un'attrattura fondamentale per la navigazione aerea, pensavo che fosse super sorvegliata, invece no, mi dice di no, che la strada è ancora sempre come una volta, tutta sferrata, eccetera, eccetera. No, io sono andato 3 settimane fa, sono andato a vedere il radiotelescopio che c'è giù a Coso, a San Basilio, nella zona del Cagliaritano. Non mi immaginavo fosse una cosa così grande, enorme, non so se ci sei mai andato, e se non ci sei andato ti consiglio di andarci. C'è una parabola enorme di 64 metri da paura, che è una delle 3 più grandi d'Europa, ne hanno piazzato 3 di queste. Una cosa spaventosa, e poi c'è un'altra un po' più piccolina, però è una struttura, sembra, cioè normalmente le vedi negli altri paesi, negli Stati Uniti, in Puzzi del Genere, e ce l'abbiamo in Sardegna. Sì, eccomi. E io, vai già. Avanti, Antonio. Ma hai mangiato, hai digerito, sì? No, sono uscito a farmi la doccia, perché io prima di andare a letto mi faccio la doccia. Sir, qualcuno di voi sa dirmi la massima potenza che hanno usato qua, in questa banda qua? Ma credo 2 kW. E io qualcuno in più l'ho sentito, di qualcuno senza far nome, anche 3 kW. 2 kW li ho sentiti pochissimo tempo fa. Sì, però attenzione, Anzu, non ti fare ingannare dai kilowatt, perché è risaputo che dopo una certa potenza poi la devi quadruplicare, quintuplicare, per avere un pochino solo. Ma non conoscete nessuno, anche non essendo in Italia, che ha utilizzato anche di più, ha osato di andare oltre. Dai, se c'è il tempo ti mando il video di questi qua, di questi radioamatori, si sono fermati a 15 kW perché il gruppo elettrogeno non ce la faceva alimentare. Ma tu se vedi cosa hanno costruito, forse Gianfranco l'ha visto quel video, l'ho fatto mandare anche a Marco, l'amico qua, radioamatore, l'ho mandato anche a lui, questi qua, degli ingegneri fuori di testa, chiamiamoli ingegneri pazzi, però hanno fatto una cosa da paura, hanno allineato di questi, ha messo in serie questi trasmettitori per altri usi, li hanno adattati a frequenze, ci hanno utilizzato delle valvole, gli apparecchi di radio, come si chiama, broadcasting, di quelle radio grosse, parliamo, e non so quanti kilowatt potevano arrivare, si sono fermati a 15, qua a Sassari 1, non facciamo il nome, però immaginate che io l'ho ascoltato con 3 kilowatt e mezzo, ho fatto le prove con tutte le potenze, alimentato con 200 watt di pilotaggio, è arrivato a 3 kilowatt e mezzo, e quando ho misurato i segnali, considerando da dove era lui, era spaventoso, perché faceva 1000, 2000, 3500, e ti rendi conto cosa vuol dire la differenza. Certo, se fai da 100 a 300 non te ne accorgi, ma se fai da 200 a 1000 e da 1000 a 3000 la differenza è la notte. Chissà quanto darli via. Ti arriva con un segnale di uno che ce l'hai qua attaccato, stiamo parlando da tutt'altra parte, senza utilizzare antenne speciali, perché se tu ti piazzi un'antenna di quelle che poteva usare, la musica cambia. Ho capito. Vabbè, ha fatto la prova, ha fatto. Però quelle potenze devi tenere presente, ci vuole anche l'antenna, perché anche le antenne tipo Mantova, eccetera, Dopodiché se non lo modifichi, perché c'hanno la famosa bobina antistatica sotto, prende fuoco. Allora, questa attrezzo la persona, scusa se interrompo, non so se conosci tu questo di Gianfra, che ci siamo molto addentrato, Daniele Frignani di Magnum Electronic, lo conosci? No. Comunque è l'ingegnere della Magnum, quello che costruisce i migliori accordatori d'antenna e i migliori amplificatori che ci sono in commercio, copiati da tutte le parti del mondo, anche dagli americani, c'ha una fabbrica a Forlì e poi, anche se devo dire, lì sono andate male tante cose, incendi, eccetera, eccetera. Dico le fabbriche, c'è anche la fabbrica negli Stati Uniti, che la Meritron per nome suo costruisce, con nome a Meritron però sono apparecchi suoi. Quello lì, una persona che ho nominato io, che non facciamo il nome, quello lì è arrivato a Forlì da Sassari 9:40 in diretta, quando ci ho fatto il video, una cosa spaventosa, stavo usando 4 kW e mezzo, a Forlì è arrivato con 4 kW, mica 4 kW e mezzo, 9:40, e ciò il video l'aveva lanciato lui, tra parentesi questo non ha problemi di niente, è uno di quelli che costruisce amplificatori di qualunque potenza, con le valvole russe da 10 kW per dire, e ha fatto i complimenti a questo radioamatore qua della zona nostra. Io sono arrivato a Palermo 960, fatti il conto. Stiamo parlando in diretta, non in propagazione, Natalia, stiamo parlando in diretta. In diretta, non si preoccupare. Che potenza c'avevi, Natalia? Boia, ciao! Cos'è stato urlando e ti hanno sentito? Lasciamo perdere, che metti? Riprendi. Poi non parliamo degli americani, se tocchiamo gli americani in 27 cosa fanno quelli lì, ci dobbiamo fare. Io non so se in America ci siano limiti di potenza, perché vedo dei video, delle cose che portano, mettono delle antenne spaventose, dei tralicci di 50 metri, 70 metri di traliccio, e mettono potenze spaventose. Non so, ripeto, lo chiedo a te Gianfra, se ci sono limiti di potenza nella 27. Quello non lo so, se ci sono, di lì la regolamentazione la fa l'FCC, no? So che però tutti i reati così fatti in quel campo, cioè degli apparati e così via, dovrebbero essere reati federali, quindi siccome è gestito dal governo centrale, di lì, ripeto, non sui limiti, però se li superi, l'FCC se ne accorge, sono guai, e non è come da noi, che ti mettono la multa. Ah, vedete se buone idee, ci buttano le chiavi. Negli Stati Uniti, se tu c'hai un eccesso di velocità, passi col semaforo rosso, ti mettono in galera, magari 2 giorni, una settimana, però ti mettono dentro. Poi non parliamo se vadi le tasse, al Capone l'avevano arrestato solo per evasione fiscale, perché aveva fatto non so quanta gente, mai nessuna prova ufficiale, solo con l'evasione fiscale sono riusciti a arrestarlo. Beh, perché lui non faceva mai niente, lo faceva fare agli altri, no? Però non ho fregato proprio lì, hanno fatto anche quel film, no? C'è anche Sean Connery, l'altro che non mi viene, Gli Intoccabili. La musica credo fosse di Ennio Morricone, tra l'altro. Sì, si sbizzarrisce comunque, perché molte frequenze loro ce l'hanno da più tempo libere, dove ci ho messo anche un pezzo della 45 mega o giù di lì, poi c'hanno il così, quegli apparati che sono sui 460, loro c'hanno il PMR, una specie di PMR, dai. Noi ci abbiamo 446, loro c'hanno intorno ai 470, dovrebbero essere, infatti in Italia sono vietati. Riprendi a te. Ciappa, non lo so com'è lì, però io ho visto che hanno apparecchi molto più forti dei nostri, parlo di quelli normali, Sì, non è detto che siano normali, sono potenze nel range che ha autorizzato l'FCC sempre, anche per i radioamatori. Quindi adesso non me lo ricordo quanto ci abbiamo, io sono rimasto ai 300 watt, però magari li hanno portati anche a 500 forse, boh. Ma che i radioamatori nelle trasmissioni ci hanno limiti come noi, 500 watt? Non ne hanno limiti, siamo noi che abbiamo il limite di 500. Bella la musica, no, dicevo, i limiti italiani, non quelli americani, ti ho detto, non lo so, ma sicuramente ci sono. Anche perché loro, rispetto a noi, a queste cose ci stanno molto attenti. Non lo so, cos'è tu? Non sono io, no, è Luca, Luca, avanti Luca. Stanotte alle 2 ti telefono. Ma Luca chi? Avanti Luca. Tu, l'hai sentito tu alto a Luca? Ho credo, via, mi arriva a fondo scala, no, cioè mi arrivi, no, oltre 9.40, già un credo che ne intendo. Io ho detto solo la tagliò cocco e basta. Ma ne qua se tu stanotte alle 2 ti telefono, hai capito bello bene? E ti faccio ballare con Muro. Ma prima mi devi far accendere il telefono però. Perché aspetto. Luca Pugione, così Natale. Allora, questo Luca Pugione, se non ci riesco col telefono, vengo e ti suono il tracciano della macchina. Sono di quelle trombe mica. Un attimino che mi hanno chiamato dall'altra parte. Natalia, come mai tu sei ancora in frequenza a quest'ora? Perché io ci mi andavo, vuol dire. In frequenza. Perché stavo facendo cosa? Ho acceso per accendere la luce. Ho acceso l'interruttore e si è acceso anche questo. Sì, Allora vai Anto, adesso un paio di minuti anche io vado via. Vai Luca Anto. Cappa. Oggi più tardi Natali, vabbè, già ci sta, dai, almeno ti sentiamo ogni tanto. Non sto manco ascoltando niente, qualche volta accendo, se no non me ne sta venendo, sono disgustato. Ma secondo me faresti bene a putitini un po' garetto, se ti abbigli troppo a... come cosa personale, disturbando, vabbè, a tutti i dinni tu, non ne ho. Infatti non ne ho. Beh signori, io interrompo la trasmissione, dai, ciao Antonio, ciao Natalino, ciao Luca e ciao Gianfranco. Io vado a Nanna, ancora presto per andare a Nanna, faccio altro, guardo un po' di televisione e poi se riusciamo a dormire dormiamo. Ciao a tutti, buonanotte, QRT da parte mia. Ciao Roberto, QRT alle cruci. Mi associo anch'io, ciao a tutti, buonanotte, scappo via, ciao Roberto, alle prossime, ciao Natalia, ciao Antonio, ciao ciao a tutti. Ciao ciao Gianfranco e ciao Roberto, buonanotte, avanti Natalino. Ciao Gianfranco, buonanotte, buon tutto alle prossime, avanti Luca. Positivo Gavarra, Gelai, e mi sto cercando solo su eBay. E sto cercando dei ricambi. Ah, per quello che sei allerta. Chiappa. Così. Natali, cominciare a putitini. C'è già una certa età, devi lasciar perdere le persone. Che rompono le scatole. Io già lo lascio perdere già. Sono gli altri che non mi lasciano perdere a me. Diciamo che giro male veramente. E tu falli fessi, dire di no. Sì, così ha giurato tu. Capa, mica stanno a casa tua a controllarti. Sì, già sono venuti, già me li hanno mandati. Già sono venuti, anche qua. Già lo so, già so tutto. Ma bisogna cominciare pure a farsi rifiutarmi, non è che uno può sempre subire e dire sempre signor sì. Mi ha cominciato un po' a guardare da attrezzarsi il pantalone. Infatti, devono stare attenti, perché se a me mi succede qualcosa, che viene qualcuno qua, la voce la devi dividere con il sottoscritto, allora non campano più. Scappa. anche la figlina sta lì. Quindi là diverso, già te lo spiego, in diversa sede. Tanto non mi pagherà bene, no? Se la bigna nel luce. Tu continua a fare quello che stai facendo e tutti dice. Sì, quando ne voglia accendo, quando non ne voglia non accendo, semplice. Io oggi ve lo gioco in panne, ma pure per altre cose, di fregarmene di tutto e di tutto. Uno dice, ma io, vabbè, già avrai ragione, vai. Vai, vostro che mi piace, vai, rompimi io. Cioè, non ne ho più cane a guinzaglio, che mi devono tenere a guinzaglio, faccio quello che voglio. Sì, infatti. Anche per altre cose sto parlando solo di radio, no. Mi siamo io e Sara, e boh, non me ne frega più nulla di nessuno. E fai bene. Avevo tanti problemi, adesso il problema non mi metto più. Il problema è mio e suo. E come tu sarai, con Concetta siete per i fatti vostri, dovete risolvere i vostri problemi. Là gli altri che se ne vadano tutti a quel paese. Chi ci vuole bene ci vuole bene, chi non ci vuole bene, piglia mezzo buono e rivarri, non ti dico io. Sì, infatti. Un buon matrimonio si basa sul denaro e sulla falena. Adesso io non me ne sto con le mani, ma se succede qualcosa, vedrai, meno che diveni bugi. Cappa. Un po' per tutte le cose, tutti i cinni brutti. Pure a me si mi vengono a rompere le scatole, decini dritti dritti decini, intanto no. Non mi pare più va bene, ma rispetto, ma non solo per questi giocattoli, no, pure per altre cose mi sono tutti che ne fanno ripetere perché ne ho subito troppo, va basta. Avammi, se mi stuzzicano molto molto, pigliano i capanati, pigliano i buco. Sì, infatti. Se stavo parlando proprio di capanati. Capa, oia. Allora, dai, dico un attalì, che pigliano un gabbidare, metti il coppo, c'è un sacco moscio. Meno male, mi ha tagliato un pochino, che c'è una pavida un poco. E sono tutta la sera lavorando e la giù la china a pezzi, c'è la china, c'è quel stracco, non è che mi fate male la china per fortuna, c'è quel stracco. E a chi tu stai pigliando, un vizio che mi avevo pigliato io. E che è un vizio? Un vizio di travagliare, se io non travaglio è stracco, no? Se vuoi mangiare, no, che così. Chi non fa niente non è stanco perché non fa niente, ma chi lavora ha ragione di essere stanco. Ah, già cantaggi canti bombole a Gerry Gadduruni, tra le mie, perché siccome sto lavorando anche un altro che il figlio si è infortunato, tra le nostre e quelle di lui, tutta la in giro, cazzo, a me quasi imbriaghi era me. Cioè, ha già regato roba di quasi 50 bombole. Me lo posso immaginare, me lo posso immaginare, Antu, però cerca di calmarti perché dopo il fisico ti presenta il conto, come è successo a me. Non faccia lo salvaldo, a chi io va di giù sì come si va giù, però da buio è l'occhio la situazione. Pensa che uno è giovane, però da buio è un casotto. Natali, i soldi mi servono, no? Non c'è più nessuno che mi dà da mangiarmi, in ovvie. Non c'è nessuno che ci porta più niente, i soldi mi servono, la può travagliare, devo travagliare. Ma tenuta. Sì, già lo so, Antu. E uno fa cosa travaglia, ma la bagnotta. Quei 30, 20 euro, 40 euro al giorno sono buoni, sono, mi porto l'uguro, però sono buoni. Aiutare un bel. Ciao. papà, soprattutto quando c'è momenti che non vale altro. Sono ancora più buone, sono. Piano piano, cosa vuoi fare Natale? No che non ve ne è più di niente che si dà se minuta, no che bisogna travagliare, cari di là a casa. Non è più come una voce, no? Purtroppo quando uno ha la famiglia deve lavorare per mantenerla la famiglia. Purtroppo è così. Capito? Se non c'è nessuno che ti dà niente, te li devi zappare col sudore della fronte. E a puttidini tutto questo che stavamo comparati, no? Che non è roba fatta da riparti di latte, no? Casa già travagliato un bel, ma fa comparare mezza la roba. Ha già travagliato come un animale. Non mi ha regalato nulla a nessuno. Me lo posso immaginare, è lo stesso di casi per me. Quello che mi avevo comprato me l'ho sudato. Scappa, infatti sono comunque giroso della roba mia. Se solo uno prova a toccarne o a farmi qualcosa, cazzo, l'ho ammazzo con le mani mie. Sono molto intesi. Se te avevo regalato ti la regalo, ma non tocca la roba mia, che sono come ti si dice, molto pignolo, mi rompo molto. E diciamo che sei geloso della roba tua, paura di aiutarla. Ed è giusto che sia così. Mi guardo che ha già travagliato mentre un cane, ma per tutto questo, che va, già va. Non me ne ha regalato nessuno, no. Ciao, detto ciò io ti do una buonanotte. Buonanotte a tutti, io vado a nanna, ciao. Ciao, alle prossime, buonanotte. Salutami famiglia, alle prossime. E saluti a Sara, buonanotte. E a Concetta. Grazie, ricambia. Buonanotte Luca, se sei in ascolto.